Semplicemente. Semplicemente. Ed eccomi qua, finalmente sono tornata, mamma mia. Mi sono assentata, siete sempre, vi ricordo che siete con Jerry all'interno di Semplicemente Insieme. Sono tornata finalmente dopo, dicevo, 15 giorni di assenza. Sì, perché anch'io, ahimè, mi sono fatta fregare dall'influenza e sono rimasta a letto 15 giorni. Mamma mia, proprio un'influenza pesante, pesante, pesante. Però adesso sono tornata, sono pronta a tenervi compagnia. E intanto vi ricordo che ci saranno un po' di novità all'interno di Semplicemente Insieme. Per qualche tempo avrò un ospite all'interno del mio programma che mi farà compagnia, ci farà compagnia il lunedì e poi il mercoledì per una piccola rubrica che adesso poi un po' vi dirò strada facendo. Ma intanto vado a salutarvi, a presentarvi un collega di radio, sì, che ha fatto il corso l'anno scorso ed ha già adesso conquistato un po' il posto. Adesso ti abbiamo raccomandato, adesso sei qua all'interno. Eccomi qua, ciao a tutti. Ciao Giuseppe, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Jerry, mi sei mancata tantissimo. Sì, guarda. Immagino, non cominciare per favore, so che anche tu sei stato male. Sono stato male anch'io, sì, purtroppo mi ha colpito anche a me questa influenza maledetta. Mannaggia, veramente. Allora dicevo che all'interno di Semplicemente Insieme tu mi terrai e ci terrai compagnia il lunedì. Sì. Con qualche notizia curiosa al solito, come con quelle che curiosità, notizie pazze dal mondo, ce ne sono tante in giro. Come quelle che do io un po', no, alla fine. Ecco, sì. E poi mercoledì invece, all'interno di Semplicemente Insieme, ci sarà una rubrica che abbiamo deciso così di chiamare Happy Cinema. Esattamente. Il nome la dice lunga. Esatto. Sì. Ci spieghi un po' tu adesso, dai, parla un po' tu, dai, facci... Sì, allora, no, è praticamente una rubrica per tutti gli appassionati di cinema, per tutti quelli che vogliono recarsi al cinema durante il weekend. Sarà una rubrica di informazione cinematografica, appunto, con tante curiosità, i film in uscita, le recensioni. Avremo anche da Palermo una corrispondente, addirittura anche lei molto appassionata, sì, una come dire, rappresentante del pubblico femminile. La salutiamo, lei si chiama Caterina Terranova, ci sta ascoltando, ciao Caterina, quindi a presto, ci sentiremo sicuramente in questi giorni, in queste settimane. Esattamente, e quindi parleremo dei film già usciti, ad esempio il grande successo del Principe Abusivo di Alessandro Siani, che veramente sta sbancando, credo ovunque. Sia interessante, vorrei andarlo a vedere. Io sono stato a vederlo proprio settimana scorsa, appena uscito, sì? E devo dire che il cinema era pieno, veramente. Ah, risate, poi vedremo anche qualche curiosità appunto sul suo copione, eccetera, perché lui sta facendo sì, questo copione. Quindi il film senza parolacce, quindi immagina una commedia senza parolacce, è una innovazione nel cinema, bene, sicuramente. Bene, bravo Giuseppe, avete visto, avete sentito. Grazie. Com'è preparato, è proprio preparatissimo. Allora Giuseppe, poi magari ne parleremo strada facendo, intanto che facciamo? Ricordiamo i numeri, li ricordi tu per poterci contattare e raggiungere per le richieste e le dediche? Sì, certo, allora innanzitutto il nostro sito crmhappyradio.it, oppure inviateci un sms al 335 5637 251, oppure telefonate in diretta qui, vi risponderemo io e Jerry, 0921 92 32 92. Oppure ricordiamo il nostro portale Facebook, da dove potete postare, messaggiare, fare la vostra richiesta anche da Facebook. Quindi entrate anche voi a far parte della nostra community. La nostra community, esatto. E allora che dici Giuseppe? Io direi di cominciare. Sì, non dobbiamo perdere balliamo. Tempo, non dobbiamo perdere tempo, perché è largo alla musica, protagonista principale assoluta e indiscussa della nostra radio di CRMP Radio. E allora cominciamo subito, muoviamoci un po', arriva lui, Bob Sinclair. Vai. sono sempre con voi. E allora continuiamo con la bella musica. Arriva il vincitore di Sanremo, Marco Mengoni, con L'Essenziale. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra, ambire poi alla pace. E nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero poche stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini. Tornerò all'origine, torno a te che sei per me l'essenziale. Questa era Marco Mengoni con L'Essenziale, vincitore della 63esima edizione del Festival di Sanremo. Perché oggi parleremo pure un po' di Sanremo, visto che da poco è finito questa kermesse musicale, è giunto ormai alla 63esima edizione, giusto Giuseppe? Daremo anche qualche sì, esattamente, notiziola? Secondo me meritatissimo successo di Marco Mengoni, appunto, ma in tutte le classifiche sta avendo successo, perché sì, io ho fatto, diciamo, un giro nella classifica iTunes, dove appunto i giovani vanno a scaricare la musica, nella top 20, sì, e lui è proprio al primo posto con L'Essenziale, appunto il singolo che ha vinto Sanremo, Marco Mengoni. Però ci sono delle curiosità, perché praticamente perché ridi Jerry? Io no, così no ti sto vedendo in web, ecco, adesso tocca anche a me. Esattamente. Eccomi qua, grazie. E allora ci sono sì molte posizioni occupate dai brani di Sanremo, ad esempio in seconda posizione appunto nella classifica, ricordiamo, iTunes Top 20, cioè Se si potesse non morire dei Modà. Bella anche questa, io l'ho ascoltata, e devo dire sono... che è molto molto bella. Sì, sono un gruppo appunto amatissimo tra i giovani e secondo me un brano, diciamo, che segna un po' di maturità dei Modà, perché sì, non è il solito brano, quello mieloso, quello dove tutti i giovani vanno a riconoscersi, Tappeto di fragole oppure non so, Favole eccetera. questo è un brano dove si parla di un argomento serio, eccetera, eccetera, e quindi anche questo sta avendo il suo meritatissimo successo. Direi. Poi vuoi sapere le altre posizioni? Sì, dammi qualche altra dritta. Sì, ad esempio, in quarta posizione, ovviamente le posizioni, quelle non dette, sono occupate da brani internazionali, però alla quarta posizione della classifica iTunes Top 20 c'è Sotto casa di Max Gazzè, che è una canzone molto simpatica, no? Poi magari dopo un po' le ascolteremo, un po' tutte sì, oggi. Sì. Esattamente. Oppure al nono posto, sì, Mi servirebbe sapere, Antonio Maggio, che è il vincitore della categoria giovani, vero? Esattamente. Canzone molto simpatica anche quella. Sì, l'ho sentita, molto, molto carina e divertente. E l'andremo a ascoltare anche dopo. Sì, è certo, come no. Sicuramente, dai, ascoltiamo tutte le canzoni di Sanremo, perché non le abbiamo ascoltate, nessuno le fa ascoltare queste canzoni, dici, veramente. Dici, ma non saprei. E allora che dici, continuiamo con la bella musica? Sì, andiamo, sempre con la bella musica, sempre qui in diretta su CRM P Radio. Maybe we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, maybe we'll be old. Well, maybe we'll be old and think of all the stories that we could have told. Solita manica che non sa canzoni che distratto non mi hai dato, di tutte le volte che giuravi amore indistruttibile, nei sogni resta solo polvere se amore. Comprato e lasciato all'ingresso, vorrei cancellare l'ossessione nei tuoi occhi quando hai sussurrato ti amo, tutte quelle volte che mi hai fatto innamorare di una finta perfezione diventata cenere, se amore. Keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our body safe to the shore. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am all right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Thank you. You're gone, gone, gone away. I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this shit will kill you. All these things will show. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this shit will kill you. All these things will show. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. E siamo di nuovo qua. Vi ricordo che siete sempre in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme, in compagnia di Jerry e oggi in compagnia anche di Giuseppe. Ciao a tutti, ciao. Ari ciao. Ari ciao. Ti chiamo Giuseppe o Peppe, come preferisci? Ma diciamo, puoi chiamarmi Giuseppe, sì, perché dobbiamo tenere un po' di distanza. Che simpatico, cioè proprio mi aspettano delle giornate fantastiche, devo dire. Ci divertiremo insieme. Sì, vogliamo dare intanto la percentuale, vi ricordo che ci sono state, sono da poco concluse le elezioni. Sì. Giuseppe, dammi un po' qualche notizia, dai, dammi le percentuali. E allora, il seggio si è chiuso alle ore 15. Alle ore 15 si è chiuso appunto il seggio. E su 8.092 comuni abbiamo una percentuale del 74,57% dell'affluenza alle urne. Uh-huh. E l'anno precedente, diciamo le elezioni precedenti sono state 5 anni fa. Sì, era del 78,62%, per cui c'è stato un 4% in meno di affluenza alle uh-huh. urne. Ho capito, bene bene. Quindi chissà cosa succederà, vedremo infatti tra un pochino insomma, ancora ci vuole un po' di tempo, però sapremo questa sera cosa, vedremo cosa il succederà. Vincitore anche di queste elezioni. Sapremo cosa succederà, speriamo che le cose insomma migliorino, perché sì, insomma ce n'è sì. proprio bisogno assolutamente. E allora adesso continuiamo noi sempre con a parlare un po' di Sanremo, anzi a parlare, andiamo ad ascoltare adesso il primo classificato della categoria giovane della 63esima edizione del festival, una canzone devo dire carinissima, simpaticissima, sì, che sì. a me piace parecchio. Mette allegria questa canzone. E noi quello dobbiamo fare anche noi, mettere allegria, quindi lanciamo la canzone, lanciala tu. Lui è molto teatrale, bravissimo, meritatissimo successo anche lui, Antonio Maggio con Mi servirebbe sapere. L'influenza fa cambiare le mie fantasie, le modifica e poi le rimodella d'arte. Non sono stato mai capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male. Mi servirebbe sapere se l'altra notte quando hai detto che sei stata tanto bene eri sincero oppure avuto solamente una parentesi di un'ora pure scarsa. E non mi va di privarmi della calma e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. Servirebbe sapere la strategia per aggirare tutte quante barriere, o quale sia la strada giusta per giustificare il male ed alleviare il dispiacere. Mi servirebbe saperlo quanto prima e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. E farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male. Continua Ti piacerebbe sapere le contromosse utilizzate per lenire le mie pene e sopperire finalmente alla tua luce intermittenza, per dotarmi di pazienza. In fondo mi è piaciuto a me n'ha dito, allora fammi male. Carina questa, mamma mia, io l'ascolto sempre perché mi piace, è divertente e simpatica questa canzone di Antonio Maggio, che ricordo è il primo classificato della 63esima edizione del Festival di Sanremo. Giuseppe, dammi qualche dato, anzi qualche altra notizia. Qualche altro dato dopo le votazioni, sì. Diamo altri dati appunto. Allora, mi servirebbe sapere, nella classifica iTunes Top 20 al nono posto. Invece un'altra canzone molto, secondo me, più simpatica, sì, forse. Sentiamo se è quella che piace a me, vediamo. Ti piace? E vediamo se piacciono loro. Sul palcoscenico di Sanremo si sono presentati un po' camuffati. E sono i secondi classificati, no? I secondi classificati, Elio, esatto. Le storie tese. Elio le storie tese al decimo posto della classifica iTunes con la canzone Mononota. Sì, anche questa devo dire molto carina, simpatica e divertente. Sì, sì. Poi loro sono bravi, insomma. Molto ingegnosa, devo dire, veramente. Sì. E poi all'undicesimo posto la affascinante Malika Yan, e se poi bella anche questa. Anche questa molto bella. E poi al dodicesimo posto, sì, abbiamo io so che tu l'ascolti molto, sì, Simona Molinari. Ah, sì, che posto è, scusa, ripeti? Dodicesimo. Tu dodicesima sei, posizione. Tu sei innamorata di Simona Molinari. Poi anche lui, devo dire che è molto molto carino. Ragazzi, amici, cosa ne pensate? Siete d'accordo con me? Voi piace Peter Sincotti? Dai, carino. Ti faccio avere il suo cellulare, dai, perché io sono, come dire, in stretti, sì, contatti con Simona Molinari. Ti faccio avere il cellulare di Peter Sincotti, perché Sincotti, lui è americano, eh? Sincotti. Sincotti. Sincotti, un grande, esatto, pianista, devo dire, bravissimo. Lui è americano e parla un pochino l'italiano. Poco l'italiano, infatti, insomma, nella canzone lo sentiamo pochissimo, però bello. La felicità, la canzone. Che poi metteremo. Sì, sì, sì, l'ascolteremo, perché anche questa mette molta allegria, perché noi a CRM è proprio la radio dell'allegria, Happy Radio. Sì, appunto. Ma chi me l'ha mandato a me questo qua oggi? Chi me l'ha mandato? Vabbè, dai, dammi, dacci qualche altra notizia. E dai, allora, dai, dal dodicesimo passiamo al quattordicesimo posto, il futuro, scusate, che sarà Chiara, mm-hmm, direttamente, sì, da X Factor. Sì, sì. E poi arriviamo direttamente al ventesimo posto, una, adesso sono io, l'amante, sì, di questa cantante, Annalisa Scarrone, Scintilla. Anche questa a me piace parecchio. Mi piace proprio lei, quindi figurati. Bene, bene. Ti piace più lei o più la canzone? Più lei, direi. Avete capito, eh? Simpatico l'amico. Però ti devo dire, Jerry, sì, che collegandoci alla classifica degli album più, sì, venduti, perché poco fa abbiamo visto la classifica di iTunes, quindi i singoli, esatto, più scaricati, tra gli album più venduti abbiamo I Modà con 200.000 copie vendute, mm-hmm, che sbancano con il loro album, appunto, Gioia, che poi tra l'altro è anche il nome della piccolina, della figlia di Checco, dei Modà. Lo sapevi questo? No, non lo sapevo. Hai visto? Ti ho dato una notizia. Sei molto informata. Informatissima. Che devo fare? Mi devo informare. Sei più informata di quei settimanali di un euro. Guarda, veramente. Sì, va bene. Okay, va. Sei, sì, sì, sì. Mamma mia, chi me l'ha mandato veramente questo qua? Giuseppe, che sarà con noi. Ma no, ma no, sono contenta. Vedremo altre curiosità di Sanremo dopo, eh? Dopo, adesso arriva lui, il mio preferito, Michael Bublé. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every you're every word, you're everything. You're a carousel, you're always unwell, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. Everything, you're every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Questa canzone molto bella, bella. E a proposito di Bublé, beh, Michael ha annunciato ufficialmente l'uscita di To Be Loved, che sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 23 aprile. Dopo il successo dell'album natalizio Christmas, Bublé torna con un disco ricco di duetti d'eccezione. Tra questi, senti un po', il più atteso è quello sicuramente con l'attrice Reese Witherspoon, che sì, ha collaborato con il cantante per la cover di Something Stupid. Te la ricordi questa canzone bellissima, bellissima, di Frank Sinatra e Nancy Sinatra? Sì, sì, sì. Che poi tra l'altro è stata rifatta, diciamo, da Robbie Williams. Esatto, e Nicole Kidman. Anche questa molto sì, bella questa canzone. Molto bella, sì. E su Twitter il cantante ha intanto sfidato i suoi fan a scartare la copertina di To Be Loved. Ad ogni 10.000 hashtag, infatti, l'artista svelerà una nuova porzione della cover fino a renderla completamente visibile. Un disco all'insegna della positività e del buon umore, come ha spiegato lo stesso Bublé. Il mio nuovo album è sull'amore, sulla felicità, sulle cose divertenti e belli della vita. E ancora in un'intervista dice: è stato molto eccitante lavorare con i miei amici e collaborare così a lungo con Bob Rock, che ha prodotto l'intero album. Quindi una squadra d'eccezione, praticamente. Wow, ma prima hai detto hashtag, una parolaccia? non è una parolaccia, smettila. Mamma mia, mamma mia. Allora, cosa diamo, qualche altra notizia su riguardante un po' Sanremo, che dici? Sì, sì, diamo le ultime notizie della classifica, appunto, degli album. Ah. Troviamo L'Essenziale, sì, che è uscito, uscirà ancora, non è ancora uscito, il 19 marzo. Ancora c'è un po' di tempo. L'album, diciamo, del vincitore di Sanremo, Marco Mengoni, Pronto a correre. Mm-hmm. Pronto a correre, non so, sarà sicuramente un album molto artistico, perché Mengoni, nella sua massima maturità, si sta rivelando molto artistico. Tu cosa ne pensi, Jenny? A me piace, devo dire, bravo, ha una bella voce, una bella grinta, sì. Soprattutto la grinta, l'estensione vocale, no, bravissimo, veramente bravissimo. E poi gli abbiamo detto i Modà. Chiara è seconda nella classifica degli album più venduti, con un posto nel mondo. Uh-huh. E la terza tra i big più venduti, degli album più venduti, esatto. Non vendiamo i big. Annalisa Scarrone, la mia amata. La Annalisa. Tua preferita, abbiamo capito. Sì, l'album si chiama Non so ballare. Non so ballare. Tu sai ballare, Giuseppe, invece? Ma diciamo me la cavicchio. Ok, dopo faremo, vedremo un po' se sai ballare. Magari accendiamo la web, mettiamo un pezzo e vediamo cosa sai fare. Magari no, dai. Magari no. Evitiamo, ok? Sì, evitiamo. Evitiamo. Andiamo avanti, ecco che arriva la mia canzone preferita di Sanremo. La tua preferita? Sì, perché poi ne hanno fatto un'altra, che è Dr. Jake e Mr. Hyde. Però tra le due io preferisco questa qui. La felicità. La felicità per tutti quanti voi, cari amici di Cinerem e più Radio. Oh, I need you back. Ho fatto errori che ripensandoci non farei. Ma questo mondo, dimmelo tu, chi non sbaglia mai. Colpa di quell'attimo di gelosia, io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po', ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua, io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Poi che cos'è? Di fatto sono sola qui, sono qui senza di te. Vorrei tornare indietro, amore, aspetta. Lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa. Amore, io per te farei di tutto. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. The lunatic parade. she's my man. Cerco di trovare la mia identità senza chiedere aiuto, ma sono lontano. Busso e non risponde neanche un'anima. Meno male che non ho paura del buio. Non ho niente per me, ma non dispero. Mangio solo fare cattiveria ormai, e non è un buon motivo per esserne fiero. Cammino da solo e non mi volto mai. Non posso perdere, disposto a sbagliare solo per crescere. Non so com'ere, yeah, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Oh, yo, yo, oh, yo, yo. Calma e sangue freddo. Calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Uomo tutta l'aggressività, ma non posso privarmi del nome che porto, conscio di una brutta popolarità, perché a volte mi faccio giustizia da solo. Odio nascondermi e mendicare, credo solo in quello che fa bene a me, e non chiedo alla vita niente di speciale. Cammino da solo e non mi porto mai, continuo a correre, a sbagliare solo per crescere. Non so come, non so come. Ci vuole calma e sangue freddo. Calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Oh, yo, yo, oh, yo, yo. Calma e sangue freddo. Calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. E prendo di mira il peggio, il futile, gli stolti e tutti i re. Non presto favori per poi riceverne, per non so come, non so come. Ci vuole calma e sangue freddo. Calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Oh, yo, yo. Calma e sangue freddo. Calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Oh, yo, yo, oh, yo, yo. Calma e sangue freddo. Calma, yeah. Ci vuole calma. Eh sì, Giuseppe, ci vuole proprio calma e sangue freddo. Tu sei calmo? Sì, io sono calmo, ho il sangue freddo perché ho notato, ho visto una notizia sul web che adesso tu ucciderai veramente. Per, sì? per tutti i single c'è un'alternativa. Ma sapevi? Sì, vero? Di affittarsi i fidanzati, la fidanzata, insomma, per chi fosse solo può farlo, ma solo in Cina comunque. Solo in Cina, perché appunto in Cina sembra, no, che secondo la loro, insomma, tradizione, sì, non lo so, sì, che le ragazze nubili portino male. E sia particolarmente di cattivo auspicio essere single in certi periodi dell'anno, come il Capodanno per esempio. Quindi ecco che in Cina nasce questa agenzia, tra virgolette, ha lanciato un servizio, sì, dove le ragazze che vogliono soprattutto evitare domande dai familiari sulla loro vita di coppia, permette quindi questa impresa, questa ditta, diciamo così, sì, di affittare un fidanzato con cui andare a cena da genitori, amici o anche a fare shopping. Ma anche gli uomini, spero. Sì, sì, sì, sì, ecco, si può, anche gli uomini naturalmente. Il servizio è nato in particolar modo per coloro che vivono lontano da casa e quindi è che tornano a casa dalle feste e vogliono, diciamo, un po' soddisfare le aspettative di amici e genitori. Quindi per evitare di sentirsi dire quando ti sposi, ma dove ce l'hai il fidanzato, ma ce l'hai il fidanzato. Guarda, non me lo dicono mai. Vero? Non me lo chiede mai nessuno. Nessuno guarda te lo chiede. Sì, mia madre poco tempo fa, cioè poche ore fa. Ci ha rinunciato. Adesso mi affitto anch'io una fidanzata, cosa dici? Vai in Cina un po', anzi, colleghiamoci adesso un po', no? E cerchiamo, magari ti do una mano anch'io a cercare questa fidanzata. Ci tengo tanto, Jerry, veramente. Senti un'altra cosa, però ancora non è finita, perché il costo, diciamo, giustamente c'è un costo per affittare, certo. Giustamente, non è proprio popolare, specie se confrontato con gli stipendi medicinesi. La tariffa è oraria. Ma spesso ci sono costi aggiuntivi, ad esempio per il viaggio, per fare quindi arrivare il fidanzato, o per l'acquisto di vestiti se si vuole che il fidanzato abbia il look che si desidera. I costi aggiuntivi, insomma. Cioè, ma non conviene trovarselo da solo un fidanzato un po', no? Anziché spendere pure tutti questi soldi per... Evidentemente no. No, eh? Si va su internet, si va a cercare il fidanzato e fidanzata e oh, stop. Che bello. Oh, sì, lo voglio con gli occhi azzurri, capelli biondi, moro, vuoi. Basso, alto, assolutamente. Grasso. Beh, bello così, interessantissima questa cosa. Ma chissà che poi se tra di loro magari poi scocca pure l'amore, scocca la scintilla, magari sai, non si sa mai questa cosa, appunto, no? Appunto, appunto, quindi potrebbe anche essere un'agenzia matrimoniale, trovi l'amore della tua vita, che ne sai? Da provare, però dovrei studiare un po' il cinese, cosa dici? Sì, in effetti il cinese è una lingua che va molto. Assolutamente. Bisogna quindi saperla questa lingua, conoscerla. Sì, perché i cinesi sono dovunque, guarda. Io so solo dire domo arigato, credo significhi arrivederci. Io so dire solo sushi. Sushi, va bene, che sì. Che poi è giapponese, credo. Beh, vabbè, sorvoliamo. andiamo avanti, continuiamo con la bella musica. Volevo fare un saluto, anzi due saluti. Saluto Chiara che ci segue sempre, segue tutti i programmi di CRMP Radio. E poi Patrizia che mi ha scritto anche lei sul nostro portale Facebook. Vogliamo ancora ricordare i numeri per i nostri amici che all'ascolto? Sì, assolutamente. Inviateci un SMS al 335 56 37 251, oppure telefonate direttamente qui da noi 0921 92 32 92. Bravo. E poi vi ricordiamo che potete seguirci in diretta streaming sul nostro sito, che è il www.crmpradio.it, oppure ancora sul nostro portale Facebook. Abbiamo ancora forse qualche notizia da dare sull'elezione, qualche percentuale. Sì, perché non dimentichiamoci che oggi appunto si sono conclusi i seggi. E andiamo a dare le notizie, appunto. Allora, vediamo qualche percentuale. Siamo qualche percentuale di affluenza. E vediamo. Quindi abbiamo una situazione ancora in aggiornamento, perché... Vabbè, sì, in continuo aggiornamento, perché ancora comunque non sono tutti... Abbiamo i dati di 78 comuni su 82 nella provincia di Palermo. Quindi vediamo un attimo. Ma appunto, aspettiamo l'aggiornamento, cosa dici, Jerry? Aspettiamo un aggiornamento e poi magari diamo qualche... Sì, Giuseppe, dai, aspettiamo qualche... Ascoltiamo ancora... un'altra bella canzone. Ancora non è molto chiaro, insomma, ancora i dati sono in continuo aggiornamento e quindi c'è un po' di confusione anche per quello. Li scopriremo dopo i dati. Li scopriremo subito dopo. Adesso lanciamo una canzone e poi ritorniamo naturalmente sempre qui in diretta su CRMP Radio. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. 'Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H-I-M. mean. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast but leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this no way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient me, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. A proposito di Lady Gaga, sai Giuseppe, c'è una notizia su Lady Gaga. Ti informo? Molto interessante. So che sei un appassionato. Ma direi che il fenomeno Lady Gaga è inevitabile, insomma. Sai che ha avuto un po' di problemini di salute lei ultimamente, è stata operata all'anca. Poverina. E lei ha ringraziato, ha scritto una letterina e dice di poter raccontare sempre sull'affetto dei fan, che in queste settimane le hanno dimostrato tutta la loro vicinanza, perché appunto è stata male, sì. E lei ha scritto una letterina sul suo sito, l'ha pubblicata appunto sul suo sito, dedicata a tutti i suoi fan, scrivendo mostri, perché lei li chiama così i suoi fan, mostri. I mostri, sono dei mostri fan. Mi avete dato un sacco di forza e vi ringrazio di cuore per aver condiviso con me tante storie di esperienze che vi riguardano da vicina. Un vero atto d'amore quindi verso il suo pubblico, che le ha fatto sentire tutto il calore prima e dopo l'intervento chirurgico. Quando appunto la stavano preparando per l'intervento, diciamo, ha pensato ai suoi fan e lei si è fatta forte, si è fatta coraggio. Molto bene. Hai capito, hai visto? Quindi... Ma com'è finita poi con il fidanzamento di Lady Gaga? Era in cerca di un fidanzato siciliano. Io sono qua, Lady Gaga, ti sto aspettando. Sì, Lady Gaga, che in questo momento sicuramente ci ascolta su 101.4, in web anche su CRMP Radio. Lei ci sta ascoltando, quindi lanciamo l'appello. Lady Gaga, in Lady Gaga, qui con io me. Sono qua. C'è Giuseppe che è innamoratissimo. Posso anche curarti l'anca se vuoi. Ma cosa dici? Cioè, ma cosa dici, Giuseppe? Ma non sai che sono mezzo infermiere? Sì. Certo. Ho studiato infermeria. Ah, hai studiato? Sì, soprattutto per Lady Gaga, guarda. Sì, va bene. Lasciamo perdere, perché guarda, stendiamo un velo pietosissimo su queste cose. Come dice qualcuno, un velo peloso. Guarda, arriva la tua preferita, Annalisa. Vai. Volano, volano i satelliti sulle formiche, piano sbiadiscono le favole quelle più antiche, ma un arcobaleno dietro il finestrino porta qui l'estate da bambino. Tornano, tornano le rondini dall'uragano e dietro il semaforo tu che adesso appari piano come una farfalla sopra la mia mano, inaspettata quanto attesa. Tu come un colpo di scena, scivola, scivola, un brivido sulla mia schiena. Per te che forse un giorno sarai solo mio, o forse solo un sogno già finito. Tornano, tornano le fantasie, quelle più ardite, noi ci guardiamo ma senza capire cosa è stato. Sembriamo una scintilla non ancora accesa, inaspettata quanto attesa. Come poterti dire che questa mia canzone

Giuseppe, tu ci sei? Siamo tornati, sì. Siamo tornati? Sì, diamo un'altra notizia per noi single, diciamo. Per noi single, va bene. Per tutti quelli che vogliono trovare la fidanzata, il fidanzato. Guarda, io vado di solito sempre alla ricerca di notizie carine. Ne ho trovata una, devo dire che molto. Perché senti un po'. Perché sembrerebbe che la favola di Cenerentola e del Principe Azzurro è oggi realtà, diventa realtà grazie ad una curiosa iniziativa che ha unito una catena di negozi di scarpe ed un'agenzia di appuntamenti in Kuala Lumpur. Iniziativa il cui slogan è: compra un paio di scarpe e avrai un uomo gratis. Questa è proprio interessantissima sta cosa. Ma invece al contrario non c'è? può esserci pure al contrario. Compro un paio di scarpe da tennis, una donna gratis. Praticamente sai come funziona? Sì. Il meccanismo, diciamo, è molto semplice. Gli uomini scelgono un certo numero di paia di scarpe, massimo 20, sì, presenti dentro il negozio. Sulle scatole delle scarpe scelte viene apposto l'adesivo appuntamento incluso. Sì. E la donna che le acquista sa che potrà quindi accettare l'appuntamento con qualcuno che, se non altro, ha i suoi stessi gusti in fatto di scarpe. Ah, hai visto? Quindi sì, non solo se accetta l'appuntamento può beneficiare di uno sconto, qualora l'uomo abbia accettato di farsi carico di una parte del prezzo, al momento quindi della scelta delle scarpe. Quindi un nuovo metodo di trovare, insomma, il proprio l'anima partner. Gemella. Esattamente. Capito? Vai a comprare le scarpe e poi là sulla scatola trovi appuntamento incluso e poi sei sorrose fioriranno. E dov'è questo negozio, scusa? Arriva dall'Inghilterra questa notizia. Sì. Nel Lincolnshire. Arriva da lì, appunto. Quindi arriva da lì. Possiamo andare tutti lì e andare a vedere un po' a fare sta. No? Benissimo, partiamo subito, Jerry. Abbiamo bisogno di trovare il proprio partner. Andiamo, tu pensa per te, insomma, non mettermi sempre in mezzo. Io aspetto Lady Gaga. Sì, mi ha mandato un messaggio poco fa dicendomi che, insomma, sembrerebbe interessata. Molto bene, molto bene. Sì. Forse. Sì, è interessata. Forse perché appunto sta poco bene, per questo è interessata. Sì, proprio mischinazzo, cioè. Dimenticarti è poco, Biagio Antonacci. Vieni a galla nei ricordi, nel mezzo dell'oceano, spunti come un ramo secco, nel verde immenso a maggio, nelle cose che ho preso e che ho cambiato, ci sei e ci resterai. Un ti amo salvato andrebbe invece sempre cancellato, così come il tuo bel nome che ancora suona forte, via regali, via dettagli, cornici solo vuote. Se bastasse davvero tutto questo, sarebbe tutto a posto. Ma ho paura che a questo giro invece dimenticarti è poco. Dimenticarti sarà per l'altra vita. Questa è già piena di corsi e di ricorsi, di capelli tuoi tanti che ho raccolto in casa e per la strada, di promesse che ho mantenuto solo quando era troppo tardi. La tua voce è un suono lungo come una nave in porto, l'espressione del tuo volto è chiara ma non troppo. Questa lunga convalescenza spero mi renderà più forte, ma se adesso qualcosa mi toccasse troverebbe il vuoto. Dimenticarti è poco e non ha senso, niente mi sposta dal punto che mi hai dato. Sono troppe le cose a cui di colpo hai tolto luce e fiato. Sono pezzi di vita che a fatica avevo costruito. Grazie di tutto, eternamente grazie. Meglio aver male che essere un fantasma. Grazie per i tuoi giorni giovani che a me hai dedicato. grazie per i tuoi fronte contro fronte. Ma quanto è bella questa canzone, mamma mia. Dimenticarti è poco. E su questa canzone naturalmente saluto Chiara. Un bacione grande, Chiara. Ciao Chiara. Allora, vogliamo ricordare intanto il nostro appuntamento con mercoledì con Happy Cinema? Sì, allora, tutti i mercoledì Happy Cinema, la rubrica di informazione cinematografica. Daremo tante notizie sui film in uscita nelle sale durante il weekend, ma anche i film, diciamo, che stanno sbancando il botteghino, tra cui proprio mercoledì prossimo Il Principe Abusivo e tanti altri film, insomma, per tutti gli appassionati. Bene, bene, lo scopriremo mercoledì allora. Di sforzi, tallonando la chimera di una melodia, composita, gremita di arzigogoli rarissimi, che poi alla fine scopri che ti mancava quella nota sola, bellissima. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

E siete sempre qui all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in compagnia di Jerry. Ancora 5 minutini sì, circa da trascorrere insieme a me, naturalmente insieme a Giuseppe, che oggi appunto mi fa compagnia. Poi naturalmente vi ricordo l'appuntamento insieme a me, ancora insieme a Giuseppe, con Happy Cinema. Mercoledì parleremo quindi di cinema, di recensioni, novità, tutti i film, tutte le novità riguardanti appunto i film in uscita. Sì, giusto, sì. Simone, ti stavo chiamando qua. Giuseppe, vabbè, dai. No, volevo ricordare un'altra cosa. Cosa ricordiamo? Dai, su. Sì, a proposito di Happy Cinema, appunto, ancora. Sì. Andrà, diciamo, in contemporanea le recensioni scritte su Cefalù Web. Per chi non potesse ascoltarci, possono sempre ascoltarci in podcast, però possono anche, come dire, leggere le recensioni su Cefalù Web, ed usciranno sempre in tempo reale con noi il mercoledì, tutti i mercoledì, appunto, la sezione Happy Cinema. Quindi mi raccomando, non perdete l'appuntamento mercoledì. Cioè, non dovete staccarvi né lunedì, né mercoledì, né venerdì con Semplicemente Insieme. Poi non perdete i nostri appuntamenti. Diamo un po' adesso le percentuali riguardanti un po' le elezioni che si sono appena concluse. Sì, diamo i primi risultati, appunto diventiamo seri. Sì. Allora, questi sono risultati nazionali. Al Senato, per quanto riguarda le sezioni scrutinate, sono 3.829 su 60.431. Abbiamo per il centro-sinistra, la coalizione del centro-sinistra, 35,21, centro-destra 26,02 e la coalizione 5 Stelle 25,13. Per quanto riguarda la Camera, sono 293 sezioni scrutinate su 61.446. Abbiamo per il centro-sinistra 34,78%, per il centro-destra 21,43% e per il Movimento 5 Stelle 29,39%. Appunto. Bene, abbiamo quindi dato un po' le primi risultati, staremo a vedere, insomma. Infatti ancora è lunga la giornata, quindi sapremo più tardi, ancora stasera, diciamo, per l'esattezza. Esatto. E allora continuiamo ancora noi sempre con la bella musica. Arriva lei, un'altra grandissima artista italiana, che anche lei ha partecipato al Festival di Sanremo. La dici tu? Sì, la bellissima, stupenda Malika Ayane. E se poi? E se poi capissi che tutto quale a prima e come prima mi sentissi inutile? Se